sale e zucchero possono essere utilizzati anche come alleati della nostra bellezza. Li possiamo utilizzare proprio come degli ingredienti per la preparazione di cosmetici naturali. Ci aiuta la dottoressa Penazzi, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Autrice di numerosi libri per tecniche nuove edizioni, tra cui voglio ricordarvi Cosmetici naturali fai da te e Cosmesi anti-age. Dottoressa Penazzi, allora ci aiuti a preparare con sale e zucchero, che sono ingredienti che abbiamo nelle nostre cucine, delle alternative ai prodotti che normalmente utilizziamo per la cura della nostra pelle e del nostro corpo. Esatto, allora io per voi oggi ho pensato a uno scrub commestibile, lo possiamo chiamare perché si può anche ingerire volendo. E con zucchero di canna, prendiamo quello più fine possibile, eventualmente se è grossolano lo possiamo un po' ridurre come granulometria con il matterello oppure per chi non ce l'ha con un bicchiere. E poi per 2 cucchiai più o meno di zucchero di canna possiamo aggiungere 1 cucchiaio di un olio vegetale. L'olio di semi di lino è molto indicato per la pelle perché è ricchissimo di acidi grassi omega 3, quindi è molto emolliente e molto nutriente e va benissimo. E poi sempre per questa quantità, quindi la proporzione è 2 cucchiai di zucchero di canna, 1 cucchiaio di olio vegetale, possiamo aggiungere 5 gocce di olio essenziale di arancio dolce, che ha un'azione molto idratante per la pelle, comunque molto addolcente e va benissimo. E poi passiamo questo scrub molto delicatamente sulla pelle asciutta, la inumidiamo sotto la doccia leggermente in modo da non asportare ancora tutto lo zucchero e continuiamo a massaggiarla. Poi possiamo appunto procedere con il risciacquo. E quel velo di olio che rimane sulla pelle si emulsiona con l'acqua e crea proprio una crema idratante, quindi non è necessario poi dopo lavarsi, ma basta semplicemente asciugarsi e la pelle rimane idratata grazie proprio a quest'olio vegetale che rimane sulla pelle. Quindi uno scrub che ci aiuta ad eliminare le cellule morte, ma al tempo stesso che poi a contatto con l'acqua, grazie all'olio di semi di lino, si trasforma in una crema, in un fluido In idratante. una crema idratante, esattamente. Magnifico, due in uno. Esatto, e questo può andare bene, ad esempio, dopo l'estate, presente quando siamo molto abbronzati e mettiamo magari una maglia bianca, una camicia bianca e abbiamo il colletto nero, proprio perché le cellule morte ricche di cheratina vanno a annerire il nostro colletto, perché l'esfoliazione normale cutanea si vede molto di più perché abbiamo le cellule imbrunite grazie appunto alla melanina. E questo, passando questo scrub, riduciamo anche questa problematica che abbiamo spesso con i vestiti d'estate, soprattutto quando torniamo dal Assolutamente, sole. certo. Allora, procediamo con. Questo mi piace molto. Allora, È carino, è molto questo piacevole. mi piace. Quindi ricordiamo lo Da zucchero di canna fine. È fare. necessario che sia di canna, vero, dottoressa? 2 cucchiai. È meglio È perché meglio. comunque è uno zucchero meno raffinato e più grezzo. Diciamo che io lo preferisco assolutamente perché ha subito meno raffinazioni, meno trattamenti ed è sicuramente migliore. Andiamo invece, usiamo ad utilizzare il sale. Sale sotto la doccia. Sì, infatti, perché si parla sempre dei bagni con 1 chilo o 2 chili di sale grosso, sale iodato per arricchire l'acqua di iodio, quindi per chi ha problemi di cellulite e anche ritenzione idrica. Ma chi ha la doccia, come può fare per utilizzare il sale, il benessere del sale come drenante, come anche stimolante cellulare? Allora, può prendere una pezza di lino, di un lenzuolo vecchio, quindi quella lino un po' a trama grossa, diciamo, mettere 2 o 3 pugni di sale e iodato perché ha problemi di cellulite oppure semplicemente sale grosso e aggiungere qualche goccia di un olio essenziale a piacere, che può essere ad esempio l'olio essenziale di limone come drenante, anticellulite, stimolante anche cellulare, 5 gocce più o meno. Poi chiude, fa tipo un fagottino e poi sotto la doccia, quindi sulla pelle inumidita, passa questo fagottino sulla pelle che nel frattempo appunto si inumidisce con l'acqua, il sale pian piano si scioglie e fa sia un'azione leggera e sfogliante, sia però il contatto col sale con la pelle permette anche questo contatto. Quindi sale sotto la doccia, facciamo un sacchettino con il sale, l'olio e qualche goccia di olio essenziale, Esatto. un po' come quelli che si fanno per gli armadi di Per gli lavanda. armadi, esattamente. Al posto della lavanda mettiamo il sale, al posto di metterlo nell'armadio lo strofiniamo sulla pelle sotto la doccia. Esatto, infatti, così possiamo utilizzare le caratteristiche positive del sale per i benefici della pelle. Insomma. E poi un idratante. Sì, esattamente, un idratante. Eventualmente, per chi ha la pelle molto secca, prima di fare la doccia può ungere con un olio vegetale tutta la pelle, tipo con un olio di jojoba, e poi dopo fare lo stesso procedimento col sacchettino e la pelle rimane molto più morbida e idratata. Ma se abbiamo l'olio di semi di lino che abbiamo utilizzato per fare il nostro scrub... Ma va benissimo anche un olio di girasole, anche un olio di girasole, per dire che noi siamo abituati, ad esempio, l'olio di girasole, l'olio di oliva, a utilizzarli molto frequentemente in cucina, e quindi non li associamo alla cosmesi, però anche l'olio di oliva per la pelle è veramente eccezionale. Grazie per essere stata con noi, dottoressa Penazzi. Ricordo i titoli dei suoi libri: Cosmetici naturali fai da te, Cosmesi anti-age, edito da Tecniche Nuove. Grazie, buona giornata. Grazie a voi e buona estate a tutti. Grazie.